Rieccoci in diretta dalle non frequenze di Radio ZM, questa è Colonna Sonora e io sono Fedoro, oggi in studio solo, orfano di Paco, assente ingiustificato per non meglio precisati motivi personali. Quindi mi scuso già con tutti i nostri ascoltatori per gli eventuali cazzate del mixer, ma sono sicuro di avere la vostra comprensione. Oggi è il primo dei due episodi mensili, in questo dicembre 2021, non perché siamo diventati una trasmissione bisettimanale, anche se in realtà ci piacerebbe tanto, ma perché giovedì prossimo, il 23, saremo in diretta con i ragazzi di ZAM che illustreranno tutte le attività e le proposte del collettivo, così che possiate farvi un'idea un po' più chiara di cosa è e cosa faccia ZAM. La radio, per darvi un esempio, è solo una delle mille attività. Tutto è pronto invece per la nostra puntata odierna, che vede nostra ospite Claudia Vago, project manager di Fondazione Finanza Etica e per Valori.it, con cui parleremo ovviamente di finanza. Ciao Claudia e benvenuta. Ciao a tutte e a tutti e grazie. Allora Claudia, non so bene, innanzitutto vabbè, partirò con i complimenti, voglio farti complimenti per i tuoi podcast sulla finanza, da What the Finance a C'è grossa crisi, invito tutti i nostri ascoltatori ad ascoltarli sul sito di valori.it o da qualsiasi piattaforma podcast, e vorrei partire invece da subito una domanda fuori dal tracciato. Oggi 16 dicembre, sciopero generale, il primo dal 2014 quando si manifestava contro il Jobs Act di Renzi. Oggi invece lo sciopero è stato indetto come protesta contro una legge di bilancio che pare essere inadeguata e sbilanciata nei confronti dei ceti più deboli. Vuoi farci un commento? Ma il primo commento che mi viene in mente è: meno male, era l'ora, insomma. E, diciamo che questa manovra, questa legge di bilancio contro cui si è scioperato oggi è assolutamente totalmente inadeguata. In più parliamo di una situazione nella quale, insomma, stiamo entrando nel terzo anno di pandemia e quasi nulla è stato fatto per come dire, aiutare le persone ad adattarsi a una vita in pandemia. Non sono stati fatti investimenti sui trasporti pubblici, sulla scuola, non si è lavorato per rendere strutturale e migliorativo lo smart working, con addirittura un ministro, Brunetta, che sostiene che i lavoratori debbano andare rigorosamente in presenza a fare le stesse cose che potrebbero tranquillamente fare da casa, ma perché devono mangiare il tramezzino al bar sotto l'ufficio. Insomma, diciamo che siamo di fronte a un governo che sulla questione della pandemia non ha attivato bene la campagna vaccinale, ma a parte quello non ha risolto nessuno dei problemi che c'era, e che brancola abbastanza nel buio su tutte le altre questioni importanti, a partire dalla transizione ecologica, con il ministro Cingolani che è totalmente inadeguato a ricoprire quel ruolo. Per il quale è stato nominato. E uno sciopero che in qualche maniera avrà a che fare sicuramente con la finanza. Hai citato Cingolani, che sicuramente ha tanto a che fare con la finanza, con il PNRR, e sono tutti argomenti che vedremo dopo. Oggi con te infatti vogliamo approfondire la nostra conoscenza sulla finanza e indagare un po' il rapporto che c'è tra la finanza e la sostenibilità. Allora, personalmente dico, se penso alla finanza, il mio bias mi porta a quei film hollywoodiani, e senza citarne alcuno in particolare, generalmente i protagonisti passano dalle stelle alle stande guadagnando e perdendo miliardi nell'arco di poche scene. Probabilmente la solita estremizzazione hollywoodiana e cinematografica, ma oggi che cos'è la finanza? Il problema è che la finanza è tanto anche questa immagine hollywoodiana di cui hai parlato. E allora, la finanza intanto è una cosa di cui il cittadino medio sa poco, se non addirittura niente. Nel nostro paese, per sapere qualcosa di finanza, bisogna aver studiato finanza all'università, perché se no nel corso del percorso scolastico l'economia e la finanza non sono minimamente trattate. Ora sì, nei piani di studio dentro all'educazione civica è stata inserita anche l'educazione finanziaria. Bisogna poi vedere che cosa questo significa, chi la svolge e in quale modo. Comunque la finanza è una cosa appunto che vediamo come molto lontana, la vediamo nei film, tu non li hai citati, ma non so, prendiamo The Wolf of Wall Street e con questo giovane rampante che diventa stramiliardario, truffando i comuni, sfruttando le persone, cioè in maniere assolutamente aberranti. E abbiamo quindi l'idea della finanza come di qualcosa di molto brutto, molto sporco, di cui non ci vogliamo impicciare. Ecco, la finanza però non è questo, la finanza è una cosa che riguarda tutti noi e della quale ci dobbiamo occupare, perché se no lei comunque si occupa di noi, quindi noi facciamo bene a occuparci di lei. La finanza in teoria sarebbe un'infrastruttura della nostra società, è un meccanismo, diciamo, che permette di fare incontrare l'offerta di soldi con la domanda di soldi. Allora, io ho dei soldi da parte e non so che cosa farne, tu hai un progetto per il quale hai bisogno di soldi, io do a te i soldi per cui tu puoi sviluppare il tuo progetto e restituire a me i soldi mano a mano che il tuo progetto cresce, eccetera eccetera. È una funzione fondamentale, cioè senza ti stai impegnando a finanziare Radio ZAM, quello che stai dicendo. Esattamente, senza la finanza moltissime delle cose che facciamo non sarebbero possibili. E il problema è quando però la finanza diventa un fine a se stesso e quindi la ricerca del profitto diventa l'obiettivo finale invece di essere un obiettivo secondario, e l'obiettivo finale essere quello di appunto mettersi al servizio di chi ha bisogno di soldi per sviluppare, anche soltanto fosse comprare una casa, voglio dire, quando accendiamo un mutuo è perché vogliamo comprare una casa, non abbiamo i soldi per farlo e li chiediamo in prestito e abbiamo a che fare con la finanza. Ma noi abbiamo a che fare con la finanza quando, non so, assicuriamo il motorino o l'automobile. Sono tutti rapporti finanziari questi. Usando le tue parole, la finanza è uno strumento e probabilmente in questo momento viene utilizzato in maniera non corretta o comunque solo speculativa, solo per la maggior parte speculativa. È per la maggior parte così, purtroppo, e quindi c'è una stortura, e questo strumento che doveva essere al servizio della collettività e del bene, della crescita, eccetera, eccetera, è diventato uno strumento a fine a se stesso, in cui l'obiettivo è quello di fare profitto per fare profitto, non fare profitto per metterlo a frutto, perché la ruota possa continuare a girare. Chiaro. E ci sai dare qualche numero sulla finanza italiana, globale, quanto, non so, in rapporto al PIL, queste, giusto per farci un'idea, avere un ordine di grandezza? Numeri precisi non li ho. Ti posso dire che solo il mercato dei derivati, che è un tipo di prodotto finanziario che nasce anche questo con scopi, non dico nobili, ma insomma utili, e poi è diventato invece uno strumento di speculazione. Quindi solo il mercato dei derivati vale, dipende dalle stime, perché poi ci sono non tutti i derivati sono calcolati, ma diciamo fra le 12, le 15, forse le 20 volte il PIL mondiale. Quindi insomma parliamo di cifre stratosferiche. E vi faccio un esempio che oggi con un collega, quando preparavo questo intervento, mi ha detto di farvi. Il mercato valutario. Allora, il mercato valutario. Il mercato valutario è il mercato delle valute. Delle valute, dei soldi. Il cambio dei soldi. Allora, io sono un concessionario d'auto e vendo auto giapponesi. Quindi vado in Giappone, compro le auto, le pago in yen, perché lì usa lo yen, torno in Europa e le vendo in euro. Per compiere questa operazione mi devo affidare al mercato valutario, che permette di fare il cambio fra yen e euro. Allora, il mercato dell'import-export, quindi, che ha a che fare con questo tipo di attività che io faccio in quanto concessionario che compra auto dal Giappone, vale 20.000 miliardi di euro all'anno. 20.000 miliardi. Il mercato valutario vale 5.000 miliardi di euro al giorno. Al giorno. Significa che per i primi 4 giorni il mercato valutario è al servizio del mercato dell'import-export. Dal quinto giorno in poi dell'anno, quindi per i restanti 361 giorni, è puramente fine a se stesso. Cioè, io compro yen non perché mi servono gli yen per comprare automobili giapponesi da rivendere in Europa, compro yen perché penso che magari tra una settimana lo yen avrà aumentato il suo valore e rivendendolo farò dei soldi. Quindi si vede la valuta come una sorta di asset class. Esattamente. Però sono i numeri in questo caso che sconvolgono. sono i numeri che sconvolgono, perché appunto quando parliamo di 20.000 miliardi all'anno e di 5.000 miliardi al giorno ci rendiamo conto della sproporzione che esiste. E insomma, e il rischio poi anche quando la sproporzione è così grossa è che basti un niente per far cadere un castello di carte, fondamentalmente. Forse viene anche meglio far capire come la finanza e la stortura della speculazione possa influire sulle vite di tutti i giorni con un esempio sui futures, maybe. Sì, beh, i futures sono un tipo di contratto derivato. Ora io non sono una grande esperta in realtà, quindi provo a spiegarmela in maniera semplice. Non allora, puoi dirci così, ti abbiamo chiamato come massima esperta esatto, globale della finanza. La massima esperta globale di finanza. Finanza etica. Allora, sì, esatto. Allora, diciamo che i futures sono dei contratti che permettono a me, che acquisto oggi un prodotto, di garantirmi che avrò questo prodotto a quel prezzo nel corso di un tot di tempo. Questo è utile per esempio se io sono un fornaio e diciamo che io ho un mulino e macino la farina, e quindi il grano mi serve oggi, mi servirà il mese prossimo, mi servirà fra 6 mesi. Quindi assicurarmi di pagare fra 6 mesi il grano al prezzo di oggi per me è utile, perché hai visto mai che nel frattempo la siccità o una qualsiasi altra cosa, cambiamenti climatici fa oscillare il prezzo del grano, mettendomi in difficoltà. Invece io così mi assicuro e so che pagherò la stessa cifra. Questa quindi nasce come strumento utile effettivamente per chi ha effettivamente bisogno garantirsi continuità di approvvigionamento, eccetera eccetera, ma nel momento in cui nelle settimane successive al crollo di Lehman Brothers nel 2007-2008, con il crollo di tutte le borse eccetera eccetera, le 25 principali materie prime, non solo alimentari, ma le 25 principali materie prime al mondo hanno visto i loro prezzi salire alle stelle, perché sono diventati un bene rifugio. Quindi gli investitori, spaventati da quello che stava succedendo, hanno detto: boh, sai che c'è? Che comunque il mais, comunque il grano, il riso, l'oro, sono cose che le persone continueranno a comprare, continueranno a esserci, e quindi investiamo in quello. E questo fa sì che ovviamente si crei un circolo vizioso, per cui poi il prezzo dei derivati, di questi contratti di assicurazione sul prezzo del prodotto, finisca per avere un'influenza sul prezzo del prodotto. Sul prezzo reale che io mugnaio vado a pagare. Esatto. Il risultato è stato, ai tempi 2007-2008, che il prezzo del mais, per esempio, è salito vertiginosamente, affamando centinaia di migliaia di persone in Centro America, dove il mais è la fonte principale di nutrimento, e che da un giorno all'altro queste persone non erano più in grado di comprare mais perché era troppo caro. Questo perché gli investitori a Wall Street preferivano mettere i loro soldi lì. Ma poi non ho capito, i investitori di Wall Street sono trovati con un sacco di grano da rivendere oppure a scadenza? Ovviamente no, perché no, dato che non c'è l'obbligo di consegna del sottostante, si chiama, quindi io posso tranquillamente investire in questi prodotti derivati su materie prime alimentari senza poi dover effettivamente stoccare a casa sacchi di riso in cantina. Questa cosa è pura e semplice speculazione. Chiaro, quindi si gioca un po' con in qualche maniera la vita delle persone comuni. Assolutamente. Poi su questa cosa delle materie prime alimentari ha subito uno stop, molte banche hanno smesso di vendere prodotti di questo tipo, cioè si sono fatti dei passi avanti, diciamo, negli ultimi 10 anni su questo fronte. Resta il fatto che fino a una decina d'anni fa era una cosa perfettamente possibile, ed è aberrante pensarci. Ok, allora, abbiamo introdotto un po' il concetto di finanza collegata all'economia reale. Adesso io provo a mettere una canzone se riesco, e dopodiché parliamo appunto di che cosa voglia dire finanza ed economia reale. Vediamo se sono in grado. Vi metto Leisure di Lonely Nights. Eccoci, rieccoci. Quindi, dicevamo, si sente spesso dire che la finanza è scollegata dall'economia reale, ma questa cosa, cosa vuol dire? E soprattutto, cosa vuol dire per la finanza investire in economia reale? Come dicevo prima, la finanza dovrebbe essere appunto questa infrastruttura che mette in collegamento chi ha i soldi con chi ha bisogno di soldi, e invece la finanza è diventata sempre più, è sempre più una macchina per fare i soldi dai soldi, i soldi che rincorrono i soldi per fare soldi dai soldi, insomma. E investire in economia reale significa prestare soldi a un'azienda perché si crede nel progetto di quell'azienda e si vuole aiutarla, sostenerla per crescere, per allargare la produzione, le attività, per assumere nuove persone, formare il proprio personale, eccetera eccetera. Investire in economia reale significa quindi anche fare investimenti di medio, se non addirittura lungo termine, cosa che è il contrario di come funziona la finanza oggi. Oggi la finanza è fatta per la maggior parte di operazioni di brevissimo termine, cioè questa cosa che si chiama high frequency trading, per cui il trading ad alta frequenza, per cui le azioni vengono comprate e vendute nel giro di pochissimi secondi da computer. Sono algoritmi fatti, pensati e studiati per facilitare questo genere di operazioni. Vengono stesi cavi sotto gli oceani per permettere alle borse di collegarsi più rapidamente fra loro in modo da poter ridurre di frazione di secondo il tempo di queste operazioni. È una cosa anche questa, ed è chiaro che se io compro ora le azioni della tua azienda e le rivendo fra 3 minuti, se non addirittura 30 secondi, non è perché fra 3 minuti ho cambiato idea sulla solidità della tua azienda e sul progetto della tua azienda, è perché le azioni della tua azienda sono salite abbastanza da permettermi di guadagnare qualcosa nel rivenderle e poi mettere questi soldi da un'altra parte. Però a questo punto non è assolutamente più la funzione che la finanza dovrebbe avere, cioè, no, io non sto sostenendo la tua azienda in questo modo. È ovvio. E a questo punto ci introduce un altro discorso, diciamo, parallelo importante, quello di tasse, nel senso che molti ritengono che non sia corretto tassare i rendimenti finanziari perché teoricamente i rendimenti finanziari sono il frutto del reddito da lavoro, quindi io lavoro tutti i giorni in ufficio, vengo a casa, pago le tasse, dai soldi delle mie tasse decido di investire su un'azienda, un fondo, un titolo. E poi magari vediamo anche la differenza tra i titoli e i fondi, se riusciamo. E quindi questi miei soldi sono già stati tassati e non ha senso che vengano tassati anche i rendimenti finanziari. Ora, vista nell'ottica di cui parlavi prima, sì, diciamo che ci rispondiamo da soli, ma in realtà perché i rendimenti finanziari vanno o non vanno tassati? Beh, vanno tassati perché banalmente, cioè sì, è normale che quando tu li hai guadagnati lavorando ci hai pagato le tasse sopra e quindi quei soldi sono tassati, ma nel momento in cui quei soldi fruttano ulteriore rendimento, profitto, non ha più niente a che vedere con il lavoro fatto per guadagnarli, insomma è tutto un altro campionato. E a questo proposito, tra l'altro, c'è una proposta in campo da moltissimi anni, che non so, ricorderete ai tempi di Genova e forse anche prima, si chiamava Tobin Tax, una tassa sulle transazioni finanziarie che i proponenti, esiste una campagna internazionale, si chiama campagna 005, i proponenti di questa misura hanno valutato nell'appunto 0,05%, che permetterebbe di raccogliere moltissimi soldi nei paesi europei almeno, da reinvestire in scuole, sanità. Io solo so quanto ne avremmo bisogno in tempo di Covid, di soldi da investire in ospedali, in formazione di infermieri, medici, strutture, scuole, per far sì che i ragazzi non debbano stare stipati in 28 in aule di 10 metri quadri, insomma. Il problema è che manca, come sempre per tutto quello che è riforme del mondo della finanza, quello che manca è la volontà politica. Una discussione su una tassa sulle transazioni finanziarie a livello europeo è avanzata, su posizioni tra l'altro molto avanzate appunto, sia in Parlamento che anche in Commissione. Poi il Consiglio europeo ha un po' fermato, adesso siamo alla parte di attuazione in cui i paesi devono recepire e bisogna vedere come recepiranno, eccetera eccetera. E una tassa di questo tipo, tra l'altro, è una tassa che renderebbe più difficili le operazioni puramente speculative di cui parlavamo prima, cioè più difficili, disincentiverebbe, non sono capace di dirlo, sarebbe un disincentivo a operazioni di brevissimo termine, perché ovviamente devo pagare lo 0,05% sulle transazioni che effettuo, avrò meno interesse ad effettuare tante transazioni, ma a ridurle al limite più basso, e quindi andando a investire in azioni e in società, in aziende nelle quali veramente credo di voler mettere i miei soldi per aiutarle a crescere, eccetera eccetera. Ma se vogliessimo, giusto ritornando ai numeri, fare un paragone tra quella che è la finanza speculativa e la finanza invece intesa come strumento di risparmio per me, investitore, e strumento di finanziamento per azienda che ha bisogno di finanziarsi, qual è la proporzione? Allora, il problema è anche tanto è che noi abbiamo dalla finanza aspettative totalmente irrealistiche, perché ci vendono delle prospettive totalmente irrealistiche. Ora, diciamo che il PIL mondiale cresce, facciamo adesso magari in tempi di Covid meno, però in tempi normali del 2-3% l'anno. Ecco, diciamo che non è proprio realistico aspettarsi rendimenti del 5, 7, 8, 10% dei nostri investimenti, perché è evidente che c'è qualcosa che non va se noi otteniamo così tanto mentre l'economia reale cresce molto molto meno. E quindi insomma c'è anche proprio uno scollamento fra la realtà e questo mondo che finisce per essere un mondo a sé. No, sto pensando che magari un'azienda che faccia più 10 su una media di aziende che fa più 2 non potrebbe essere abbastanza realistico. Il problema magari è quando fai più 35 mentre l'economia reale è ferma. Ok. E io metterei ancora un'altra canzone che è azzeccatissima, Money, Pink Floyd. La sfumerò perché è una canzone lunghissima, e nel frattempo colgo l'occasione per ringraziare Mattia, che ha fatto la selezione della musica come sempre. Rieccoci in diretta. Bene, Claudia, si parla molto ultimamente dei temi, fondi, tutto quanto ESG, che è un acronimo che sta per Environmental, Social and Governance. Ma innanzitutto, che cosa sono i fondi ESG, o che cosa sono i fondi? Non abbiamo parlato, ma credo che lo sappiano tutti i nostri ascoltatori. Cosa sono i fondi ESG, cosa c'è di vero e come si identifica un fondo che fa greenwashing, o come si investe in un fondo veramente ESG? Allora, che domande epocali. Dunque, come dicevi tu, ESG, Environment Social Governance, significa, sono investimenti che tengono in conto le ricadute, gli impatti ambientali, sociali e governance, di trasparenza delle aziende in cui si investe. Allora, a livello europeo ora va molto di moda parlare di sostenibilità, e un po' perché, per tante ragioni, e soprattutto di sostenibilità ambientale, e perché ci siamo accorti che c'è una crisi climatica in corso e che è urgente agire, e quindi adesso sono tutti quanti sostenibili dal punto di vista ambientale. E, la Commissione europea è al lavoro da alcuni anni per dare una definizione, insomma, di che cosa sia finanza sostenibile, dare delle linee guida agli operatori del mondo della finanza. Questa cosa, da un lato, è una buona notizia, perché finalmente avere una definizione condivisa è sicuramente utile e importante. La mancanza di standard condivisi e il fatto che ogni banca e ogni gestore potesse decidere la propria definizione era un problema. Anche ogni gestore poteva definire la propria, cioè poteva definire sostenibilità come faceva comodo a lui, e di solito lo faceva in maniera debole e soprattutto fatta su misura per le proprie esigenze, per cui poi tu avevi questi report di sostenibilità per cui, non so, la banca X era sostenibile perché usava, che ne so, carta riciclata in tutte le sue filiali o lampadina a basso impatto. Sì, e poi magari finanziava le centrali a carbone, quindi insomma, diciamo che invece il fatto che dall'alto esistano delle linee chiare e condivise è un passo avanti. E in più è importante anche rendersi conto dell'importanza del sistema finanziario e di quanto renderlo sostenibile, soprattutto in termini ambientali, ma non solo, sia importante e fondamentale. Ora io vi do dei numeri. Nei 5 anni successivi all'accordo di Parigi, quindi dal 2015 l'accordo di Parigi, dal 2016 le 60 principali banche al mondo hanno dato alle fonti fossili, dalle aziende che estraggono, lavorano, eccetera, eccetera, 3.800 miliardi di dollari, che sono una cifra spaventosa. Fra queste 60 banche ce ne sono due italiane, Unicredit e Intesa San Paolo, che insieme in quei 5 anni hanno dato 45 miliardi di dollari, che è l'equivalente di una manovra finanziaria. Soldi che non sono soldi che sono cresciuti su un albero, sono i soldi delle persone che hanno il conto corrente, il mutuo, il prestito, o investono in prodotti finanziari di Unicredit e Intesa San Paolo. Okay. Sono i nostri soldi. Quindi bene, è importante che ci si renda conto che questi 3.800 miliardi di dollari è meglio indirizzarli altrove. Restano tuttavia una serie di problemi. E intanto la sostenibilità, così come viene definita dalla Commissione europea, rimane comunque un obiettivo secondario rispetto alla massimizzazione dei profitti per pochi. E qui interviene una differenza con la finanza etica, cioè per la finanza etica realizzare utili è funzionale all'obiettivo di massimizzare i benefici per le persone, per le comunità, per il pianeta. Quindi si fanno profitti, si fanno utili perché è importante, per poterli reinvestire e per far crescere progetti sostenibili. Invece questa definizione di finanza sostenibile data dall'UE lascia un po' ancora, insomma, diciamo che la finanza sostenibile diventa un po' un fattore di marketing, ecco. quindi scivoliamo verso il greenwashing. Ecco, e non c'è l'obbligo di non nuocere alla comunità e all'economia reale, per esempio, e quindi in un'economia che, come in un sistema finanziario che, come dicevamo prima, è fatto per la grandissima parte di strumenti speculativi, il fatto di non escludere la possibilità di fare questo genere di attività non è il massimo. E, in più, la definizione di finanza sostenibile, per come è pensata ora, si applica a un solo prodotto. Quindi io posso fare le peggio schifezze, quindi il 95% dei miei utili tirarli fuori dal finanziamento delle fonti fossili, poi avere un 5% di investimento sulle rinnovabili e io posso vendere il mio prodotto come sostenibile. All'interno del prodotto il 5% è sufficiente per definire un prodotto sostenibile? Ma basta un prodotto sostenibile, il fatto che io poi tutti gli altri prodotti finanziari miei siano tutto perché sostenibili mi permette comunque di vendere quel prodotto come sostenibile. Ok, quindi cerco di riassumere per vedere se abbiamo capito. Allora, io sono una banca, i prodotti sono i prodotti finanziari, quindi vari fondi. Se io come banca ho un sacco di fondi che non sono sostenibili perché investono in aziende che fanno finanziano appunto oil and gas eccetera eccetera, ma ho un prodotto, quindi un fondo che non investe in oil and gas e in prodotti, in aziende che non sono nocive per il clima, la banca può vendere i prodotti come sostenibili o solo quel prodotto? Sì, ovviamente solo quel prodotto, okay. Però comunque io banca posso vendermi come banca sostenibile, posso raccontare che sono attenta alla sostenibilità perché infatti guarda questo mio prodotto, quando questo mio prodotto è uno specchietto per le allodole, è la cosa che mi serve per acchiappare i clienti e a cui poi vendo i prodotti veri, quelli che sono i veri, insomma. E in più è una definizione che tiene in conto quasi esclusivamente gli aspetti ambientali. Allora, a marzo di quest'anno e adesso nelle prossime settimane dovrebbe arrivare la chiusura definitiva di questo documento che si chiama tassonomia, sì, che è l'elenco delle attività economiche che si possono considerare sostenibili. E su questo c'è un grosso problema. La ragione per cui stiamo arrivando adesso e ancora non è chiaro come andrà a finire, anche se i giornali italiani hanno già incappato Vittorio Pereni, è che ci sono grosse discussioni a livello europeo su due cose, che sono essenzialmente il nucleare, perché la Francia ci tiene molto, e il gas, a cui tengono moltissimo i paesi, Eni da noi e i paesi dell'est Europa, che hanno costruito gasdotti e che quindi insomma non hanno granché interesse a perdere i soldi dell'investimento che hanno fatto, e si vogliono inserire quindi il nucleare e il gas fra le attività economiche da considerare come sostenibili. Il gas come energia di transizione, quando invece la scienza ci dice che noi dovremmo, il gas è comunque un combustibile fossile, meno inquinante e emette meno CO2, gas climalteranti rispetto al carbone e al petrolio, ma comunque ne emette, e ne emette troppi per poter rispettare gli obiettivi dell'accordo di Parigi. E quindi noi il gas non lo dovremmo bruciare. Allora, in questa tassonomia probabile che rientreranno queste come attività da considerare come sostenibili, quindi molti soldi di investitori potranno essere dirottati sul finanziare queste attività, quando invece ne avremo bisogno di mandare soldi per sviluppare le energie rinnovabili. E poi è partito tutto il percorso per la definizione della tassonomia sociale, perché appunto, come dicevo, in questa definizione al momento di finanza sostenibile l'attenzione è tutta puntata solo sugli aspetti ambientali. E ora faccio un esempio molto, molto semplice. Una diga per alimentare una centrale idroelettrica è un progetto oggettivamente sostenibile dal punto di vista ambientale. Nel senso che mi permette di produrre energia elettrica a bassissimo impatto, con emissioni di CO2 praticamente zero, e quindi è rinnovabile, perfetto. E quindi per l'economia per la finanza sostenibile un progetto di questo tipo è assolutamente da finanziare. Ecco, noi che invece pensiamo che la finanza debba avere una sostenibilità a 360 gradi, quindi noi parliamo di finanza etica e abbiamo una visione un po' più complessiva, diciamo, aspetta un attimo, tu per costruire quella diga, quell'invaso enorme, devi prendere decine di migliaia di persone che vivevano su quel territorio e deportarle altrove, le metti a vivere in container, quelle non hanno più i terreni da cui traevano sussistenza, vanno a vivere alle periferie delle città, emarginati, inseriti in percorsi che va a sapere dove vanno a finire. Ecco, questa roba non è minimamente sostenibile da un punto di vista sociale. E quindi per quanto ci riguarda, quello non è un progetto sostenibile. Mentre il concetto di governance, la G di governance? La G di governance ha a che fare con la trasparenza, con la partecipazione, con la possibilità delle persone di dire la loro, di essere nel momento in cui, in banca etica, la banca etica è una banca cooperativa, si può diventare soci della banca, quindi, e si può avere voce in capitolo sulle scelte della banca. E quindi è importante che le persone non siano soltanto numeri e soldi da mettere su un bilancio, ma siano ascoltate, possano essere ascoltate, possano farsi sentire quando sentano una necessità. E quindi un'altra cosa importante, per esempio, è che gran parte della finanza lavora sul fare lobbying, per esempio sulle istituzioni europee, che è una delle ragioni per cui non si riescono a fare riforme finanziarie decenti. A Bruxelles operano, non mi ricordo quanti migliaia di lobbisti del settore della finanza per un giro d'affari di 120 milioni di euro l'anno, una potenza di fuoco pazzesca, come l'ha definita Corporate Europe, che è un'organizzazione che si occupa di monitorare le lobby a Bruxelles. E chi fa finanza etica pensa che oltre a un lavoro di lobbying, perché comunque è importante parlare anche con i decisori, quello che è importante fare è rendere le persone consapevoli e capaci di prendere decisioni consapevoli, quindi capire, cioè per noi è molto più importante sensibilizzare le persone, le comunità e far comprendere quali sono gli impatti positivi, i possibili impatti positivi della finanza e quali sono gli impatti negativi della finanza tradizionale, per fare in modo, fare quella che noi chiamiamo educazione critica alla finanza, che è quello che proviamo a fare anche con Valori, anche con il podcast che citavi prima, cercare di spiegare alle persone le cose affinché le persone possano essere padrone delle proprie decisioni, insomma. Ok, hai un po' spoilerato quella che era l'ultima domanda, quindi andiamo avanti su questo tema. Dicevamo che quindi la finanza è la causa in qualche maniera di tanti, se non di tutti no, però di tanti dei nostri problemi, quindi dall'inquinamento al riscaldamento globale, perché il profitto è da anteporre a tutto. La finanza è l'eccellenza di questo sistema, diciamo, neoliberista, che ha del profitto l'unico suo credo. Immagino che la finanza lo sia. Ci vorrebbe forse più stato sociale, meno finanza, e soprattutto in quest'ottica come la finanza etica si differenzia, forse l'hai già detto, ma può cambiare questo modello finanziario? Beh, come abbiamo detto, il problema grosso è che la finanza ha subito una deriva un po' perché, come dire, era possibile che succedesse, non perché qualche cattivo maligno ha ordito un complotto, però era possibile che succedesse, però esattamente come era possibile che succedesse, è possibile fermare questa deriva ed è possibile riportare la finanza ad essere al servizio delle comunità, del pianeta, delle persone, eccetera. La finanza etica esiste, può esistere, esiste in Italia, c'è un istituto bancario, insomma c'è una società di gestione del risparmio che fa parte del gruppo Banca Etica e che operano sui principi della finanza etica. In Europa sono decine gli istituti che operano su questi principi sono raccolti in una federazione che si chiama FEBEA, che è la Federazione Europea delle Banche Etiche Alternative. A livello mondiale esiste la GAB, che è la Global Alliance for Banking Values, e la finanza etica ha diversi principi, fra cui, cioè, esiste un manifesto della finanza etica che si trova facilmente anche, credo, su Wikipedia, tra l'altro. Il manifesto della finanza etica spiega come per la finanza etica il credito sia un diritto umano universale, e come appunto il fare utile e l'efficienza sia importante perché garantisce alla macchina di poter funzionare, di poter continuare. Quindi la finanza etica non è beneficenza, non si regalano i soldi, gli investimenti sono fatti in maniera accurata, oculata, perché i soldi devono tornare per poter essere ridati a qualcun altro e avanti così, insomma. Se io invece regalo i soldi al primo che passa, sto facendo finanza etica. La finanza etica poi è soprattutto il tenere in considerazione le ricadute non economiche delle nostre azioni economiche, e cioè, sì, se io investo 10 nella tua azienda e mi torna indietro 11, questa è la ricaduta economica della mia azione economica. Se io investo 10 nella tua azienda e tu, grazie ai miei 10, puoi formare i tuoi dipendenti e far sì che quindi possano fare un'attività in più rispetto a prima, questa è una ricaduta che non è economica nell'immediato, ma che per noi che facciamo finanza etica è importante. E come... per noi è tanto importante quanto quella economica. Ma come lo valuti? Nel senso, io sono un investitore, a me quello che importa è che ritornino i soldi, nel senso, ti ho prestato 10... Lo so, bisogna scardinare questo meccanismo e spiegare alle persone che a volte, insomma, se ti ritornano i soldi perché hai investito nella produzione, nella vendita di armi che sono andate ad alimentare conflitti e a uccidere persone in alcune parti del mondo, sì, a te personalmente sono rientrati dei soldi, ma sei contento? Dormi bene la notte? Ti fa piacere sapere che i soldi con cui andrai in vacanza settimana prossima derivano dal fatto che qualcuno nel mondo è morto perché tu hai finanziato la produzione e la vendita di armi? Non lo so, io no, e come me penso tante persone. Le armi, ma anche, appunto, si parlava di clima e di ambiente e di attività che sono nocive per il clima, per l'ambiente, e le persone sensibili al rispetto dei diritti umani, dell'ambiente, sono sempre di più, e quindi sempre di più è importante che le persone conoscano il potere dei propri soldi nel momento in cui fanno una scelta, banalmente la scelta di dove mettere il proprio conto corrente, o un po' più in là la scelta di dove investire i propri soldi. Perché è da lì che, diciamo, che si parte poi con tutta la catena finanziaria. Claudio, io metterei l'ultima canzone della serata, Silvia Nesso, Fairy Wheel. E dopodiché affronterei con te l'ultimo discorso, e vorrei capire se riesci a spiegarci un po' il giro del fumo dei soldi del PNRR e di come questi arriveranno o non arriveranno nei posti giusti. Ok. August in the heat, sweaty in the street, tilt-a-whirling, whirling, whirling. I can feel your eyes, find me in the crowd, think you like me now. I've been seeing you every day, on my block in your white tee. You're looking pretty fine to me, so why are you waiting? When I'm swimming in my dancing shoes, asphalt top and my knees all bruised. It's a summer, got a lot to prove, can't wait to do it, can you? Now! Oh, I'm swaying from side to side, in the neon lights, singing in the wonder world, got vibes. You're divine for tonight. So high. So what are you waiting? When I'm swimming in my dancing shoes, I smell tight and my knees all bruised. It's a summer that I love to prove, can't wait to do it, can you? Now! Oh, I swim from side to side, in the neon lights, sitting in the wonder world, got vibes, you'll be there for tonight. Bene, dunque, dicevamo PNRR, Piano di Ripresa e Resilienza, Next Generation EU, tanti nomi, tante sigle, ma di cosa stiamo parlando? Nel senso, cosa sono questi soldi? Allora, il PNRR è la declinazione italiana appunto del Next Generation EU, che è questo grande piano promosso dall'Unione Europea, dentro il quale sta il Recover and Resilience Facility. Che è un piano per la ripresa, la ricostruzione post pandemia, post, insomma, ci sono ancora dentro, però l'idea è quella di rilanciare l'economia del vecchio continente dopo la pandemia da Covid-19. Allora, è un piano da grosso modo 670 miliardi di euro, quindi una cifra importante, ma non... Aspetta. Adesso sono 670 miliardi, prima parlavamo di 3.000 e passa, no? Giusto per dare l'ordine. 3.800 esatto. Miliardi, esatto, in 5 anni le 60 banche, ora voi immaginate che sono banche, ce ne sono molto di più, queste sono le prime 60 banche. E quindi 670 miliardi non sono poi così di euro, tanti. Non sono poi così tanti. Allora, quello che c'è è che l'Unione Europea ha detto... Non so se vi ricordate che era stato lanciato questo Green Deal europeo quando si è insediata la von der Leyen, questo grande piano verde per la conversione, che è stato un po' stoppato dalla pandemia, perché appunto quindi i soldi sono stati dirottati per la ripresa dei sistemi economici. Però l'Europa ha detto, vabbè, facciamo così, che però il 37% almeno di questi fondi devono essere investiti in progetti che siano legati alla transizione ecologica. Che sembra una cosa, beh, buono, però il 37% significa che il 63% può essere fatto per qualsiasi cosa. Quindi io posso usare il 37% per finanziare energie rinnovabili e il 63% per finanziare gas e petrolio. Tranquillamente, e nessuno batte ciglio su questa cosa. In più bisogna anche vedere poi se i paesi effettivamente rispettano questo 37%. Allora, c'è un'iniziativa di un think tank internazionale che si chiama Green Recovery Tracker, hanno messo in piedi un sistema per monitorare questi impegni. Ora, credo che per l'Italia la situazione sia un po' migliorata, però fino a qualche mese fa era all'ultimo posto in Europa e stava al 16% degli investimenti, che poi anche lì erano misurati su come, perché l'Europa come fa a definire, prende la tassonomia e quindi considera sulla base della tassonomia quello che è considerato transizione ecologica. Vabbè, la Finlandia è il paese che investe maggiormente, il 44%, il problema è che la Finlandia prende da questo piano 2,1 miliardi di euro, quindi sono noccioline, quindi ci fa molto piacere che il 44% di questi 2 miliardi siano investiti in progetti legati alla transizione, ma parliamo di niente, insomma, a fronte dei 3.800 miliardi o... Stesso periodo, 5 anni dopo l'accordo di Parigi, quindi dal 2015, i governi del G20, che anche quelli a luglio si sono incontrati a Napoli, grandi proclami, Cingolani ha chiuso il vertice del G20 su clima e energia dicendo che insomma ormai la salvezza è a portata di mano, quei governi del G20 in 5 anni hanno concesso sussidi pubblici alle fossili per 3.300 miliardi di dollari, quindi ora voi capite che di fronte al miliardo che la Finlandia investirà in progetti di sostenibilità fa un po' ridere. Bene, E ritorniamo a noi, abbiamo un sacco di domande, in realtà una ricorrente, e provo a pescare quella espressa meglio. È: io come faccio a selezionare un fondo sapendo di investire in cose tra virgolette giuste, nel senso di non andare a finanziare le fossili eccetera eccetera? È molto difficile, è molto difficile proprio perché operatori che siano pienamente sostenibili, come dicevo prima, in Italia non ce ne sono, tranne uno, e quindi... Che è? Etica SGR. Bene. Che fa parte, come dicevo prima, insomma, la società di gestione risparmio del gruppo Banca Etica, e gli altri, boh, sì, magari ti capita anche di comprare il prodotto sostenibile, ma va a sapere se poi lo è per davvero, se lo è completamente. Bisogna fare domande, tante domande, ma anche solo quando si apre un conto corrente bisognerebbe chiedere allo sportello: scusate, ma voi dei miei soldi che cosa ne fate? Perché noi abbiamo questa idea del: io metto i soldi in banca e i soldi dormono lì, ma i soldi non dormono. I soldi, cioè nel momento in cui li poggio in banca, prendono e cominciano a girare il mondo. E quindi sì, posto che insomma c'è una parte che deve rimanere a tutela, bla bla bla, però insomma, funziona così il sistema. E quindi fare domande: scusi, ma voi i soldi come li investite? E se non si ottengono risposte soddisfacenti, andare da un'altra parte. E magari chiede anche dei report per quanto riguarda poi i vari della reportistica sul fondo. Va bene. Esatto. Claudia, io ti poi ringrazio. Su questo c'è anche da dire che c'è anche un tema sulla trasparenza. Ora, io lavoro per Fondazione Finanza Etica, mi occupo di valori.it, che è appunto la testata giornalistica di fondazione, e quindi fa anche brutto magari che io parli di Banca Etica, però Banca Etica è anche l'unica banca completamente trasparente che pubblica sul proprio sito internet tutti i finanziamenti che concede, e quindi è possibile sapere a chi vanno i soldi e per cosa, ovviamente non i finanziamenti privati, però insomma le aziende eccetera sono tutti quanti pubblicati sul sito internet, e quindi è impossibile che loro finanzino cose nelle quali io non mi riconosca, perché nel caso le trovo. Ne posso vedere su questo report. Ottimo. Claudia, ti ringrazio tantissimo. Spero abbiamo fatto un pochino di chiarezza nel mondo, brutto mondo della finanza. Vi lascio con questa Senza Lilleri, canzone azzeccatissima. Nel frattempo saluto anche Mattia che è arrivato. E alla prossima. Grazie a tutti e a tutte. Buona serata. A te. Chi ha dato ha dato, chi vive nel presente, chi dimentica il passato. Chi ha avuto ha avuto, e chi ha dato ha dato, chi vive nel presente, chi dimentica il passato. Non c'è niente da temere, non c'è niente da aspettare, non c'è niente da cercare, niente da fuggire. La fame non è fame, se il pane non è pane. Chi ha fame non ha il pane, chi ha il pane non ha i denti contenti di appartenere a una struttura. E che più vado avanti, che più mi fa paura, che dimentica le proprie radici, che si cerca un lavoro e non lo trova manco a pagarlo oro. Chi c'ha un contratto con Coco e le tre civette sul comò, che facevano l'amore con la figlia del dottore. E chi il lavoro ce l'ha cattivo e che mi è nato un sospetto, speriamo sia legittimo. Chi sta sulle poltrone, chi ne abusa. usa. Non amo la divisa, nemmeno chi la usa. Non amo la divisa, figurati chi la usa. Dalle spese, chi non arriva manco alla fine del mese, chi fa fatica per restare a galla, senti che te dice la Iole Balalla.